L'obiettivo che ci diamo, ce lo siamo detti anche oggi, è sicuramente allargare la platea delle persone che ben possono accedere allo sportello e che quindi possono conseguentemente arrivare agli organismi di composizione della crisi. E ovviamente è importante per noi anche questo protocollo, perché ci consente di monitorare anche le situazioni. Oggi ne sono emerse alcune, che sono situazioni ovviamente che sono da affrontare rispetto agli aspetti di natura finanziaria e relativi al debito, ma sono anche spesso e volentieri delle situazioni sociali che ovviamente siamo chiamati noi come comune in questo caso ad affrontare attraverso le nostre politiche sociali e non solo.